Il punto di Stefano Folli. È singolare, prima i partiti hanno voluto tenersi questa legge elettorale, il famigerato Porcellum, e adesso la disattendono in uno dei punti principali, quello che ha fatto scorrere fiumi di retorica. Mi riferisco all'indicazione del candidato Premier che dovrebbe essere il mastice della coalizione, dell'alleanza tra forze diverse. A sinistra il candidato è Bersani, al centro è Monti e a destra non si sa. Berlusconi formalmente non lo è più, ha fatto il suo passetto indietro per stringere l'intesa con la Lega, ma è un mistero chi prenderà il suo posto in base alla norma di legge. Alfano, Tremonti, come vorrebbe Maroni o chi? Il centrodestra va in campagna elettorale con un debordante Berlusconi, che però ufficialmente è solo il capo politico della coalizione. Insomma, sarebbe il caso che venisse indicato chi andrà a Palazzo Chigi nell'ipotesi improbabile di una vittoria del centrodestra, per rispetto degli elettori e in ossequio proprio a una legge elettorale che gli stessi partiti hanno voluto contro ogni logica.